alla parola del Signore è molto più difficile che vedere un miracolo. Ciò che si vede solo con gli occhi del corpo abbaglia. Ciò che si vede con gli occhi della mente credente illumina. Che sia così di fronte a questa pagina del Vangelo. Fare un'affermazione così può essere semplicistica. Vediamo perché. Per allontanare la paura ai discepoli che temevano di trovarsi davanti a un fantasma, Gesù rivolge l'invito più semplice, più concreto. Toccatemi, guardate le mie mani, i miei piedi. Quindi l'uomo conosciuto, fatto di carne e ossa, tra parentesi, Gesù non vuole essere temuto, ma amato. Non accetta di esercitare un potere fondato sulla distanza, sulla suggestione. Vuol convincere con le cose che fa, con i segni che mostra, con le parole che pronuncia, perché possono, anzi, suscitano scandalo. Le sue sono parole scomode, esigenti. Non cercano un consenso formale o un ascolto passivo. Ancora, il villaggio di Emmaus, questo villaggio che sta a ritroso della capitale, diventa un punto di riferimento per gli apostoli. Questi discepoli che tornano a casa dopo 3 giorni avevano atteso, sperato, pensato, rischiato, però tornano a casa discutendo tra di loro, magari in forma un po' confusa. Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Cristo che ci cammina accanto, e magari non sappiamo che stiamo camminando assieme a Lui. Chissà chi è colui che cammina davanti, insieme, prima. Chiuso questo Cristo dentro in una filosofia, è una bestemmia. Lui si presenta ora vestito di pellegrino, ora come mendicante, ora come ortolano. E tu devi sempre stare attento. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Sarebbe interessante capire che cosa impediva. Per questo Gesù risorto non si limita a dire abbiate fede, sono io. Dice toccatemi, guardatemi, datemi da mangiare. Proprio uomo tra gli uomini, credente tra i credenti, giusto tra i giusti, ma anche insieme con gli affamati, bisognosi di questi bisogni elementari. Tra parentesi, esprimo. c'è in me un po' di fastidio dire queste cose su questo tempo che è il mio, che è il nostro tempo. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture. Così sta scritto: dovrà patire e risuscitare dai morti, e nel suo nome saranno giudicate tutte le genti della terra. Allora faccio tre piccole considerazioni per la nostra, chiamiamola spiritualità, sì, generata dal Vangelo. Le altre generazioni della spiritualità possono essere belle o possono essere quelle di Radio Maria, tra parentesi, con rispetto di chi l'ascolta. Una prima considerazione: stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Com'è impegnativo credere? Sorgono dubbi, scorgo una gioia che pare eccessiva, troppo bella per essere vero. Questa straordinaria maniera di essere stupiti, di essere anche in agitazione, da allora non si è più fermata e ha preso anche noi, ha preso la mia fede, quella faticosa. Non sono un fantasma, dice Gesù, non sono l'illusione di un dormiente o un sogno ad occhi aperti. Allora una seconda considerazione: vedete, toccate, mangiamo insieme, io ho vita piena, non allo stupore, non ai racconti, non alle profezie. Gli apostoli si arrendono a una porzione di pesce arrostito, il più semplice dei segni, il più umano e primitivo bisogno del corpo. Il Signore che si avvicina a questi nostri sensi, che rinuncia ai segni prodigiosi, proprio un essere vicino, non essere, essere il più familiare possibile. Gli apostoli segnati per sempre dal segno fra tutti, il più umile e quotidiano, lo daranno come prova: noi abbiamo mangiato con lui dopo la sua risurrezione. Potessimo dirli tutti quanti dopo aver mangiato la domenica mattina il corpo e bevuto il sangue di Cristo. Mangiare è il segno della vita, mangiare insieme è il segno più eloquente di un legame anche rifatto, anche ricucito, di una comunione ritrovata che tiene insieme le vite. Da ultimo, non sono un fantasma. E chi sei, Signore? Un'emozione casuale? Un gioco di ombre sul muro della vita? Un mito? Un rito settimanale? No. Cristo è il presente e il futuro della mia carne, concreto punto di riferimento della storia mia, vostra e di tutti gli uomini. Non è un fantasma, una parola che svela e apre alla vita, che bastano i giorni, vive in me, che ama, piange anche le mie lacrime e sorride come nessuno. Non so se in questo tempo Dio non piange, io credo di sì. Però c'è anche la parte che gioisce. Chiudo. Vorrei ripartire oggi come i due di Emmaus alla ricerca della carne di Cristo. E se Cristo è dentro la carne del mondo, un Dio vestito di umanità e di tutti i nostri volti insieme, fanno il suo unico volto, uguale a dire l'umanità è il corpo di Dio. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.